Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq. We have the name of their next target. Sono urla per le strade, gente impazzita, corri impaurita, cercando una via di fuga per salvarsi la vita. Ti accorgi che il mondo sta cambiando, ti accorgi che la torre sta crollando in un nanosecondo, me ne rendo conto, le immagini in TV che stanno dando sono uno strazio, un aereo dirottato che si schianta come un razzo, buttando giù una torre come un pezzo di legno, un gran boato che spacca al secondo, mi rendo conto di ciò che sta accadendo intorno, una nuova guerra sta iniziando, violenza chiama violenza, da una bomba non nasce una speranza, mille più di mille corpi rimane solo un'ombra, dalla TV solo fumo negli occhi e tanti morti dimenticati, e voi dove siete stati? Violenza chiama violenza, da una bomba non nasce una speranza, mille più di mille corpi rimane solo un'ombra, dalla TV solo fumo negli occhi e tanti morti dimenticati, e voi dove siete stati? Voi dove siete stati? La gente urla per me, una guerra insulsa, la TV ne parla, la statua della libertà non ha più un senso, un urlo, un pianto si è innalzato, i pompieri a scavare su sto mondo che sta per crollare, molti aerei sono cascati e molti sono stati ammazzati, l'America si è incazzata, la terra afghana è stata bombardata, per me in questa guerra non c'è un vinto né un vincente, no, l'arbitro è un demente, proseguita da dementi, i bambini sono impotenti, non sanno cosa sta accadendo intorno, sono i potenti che uccidono il mondo. Devo partire come soldato, mi hanno chiamato e mi sento inculato, io in questa guerra non ci ho mai creduto, no. Understand the concept of love. Violenza chiama violenza, da una bomba non nasce una speranza, mille più di mille corpi rimane solo l'ombra, dalla TV solo fumo negli occhi e tanti morti dimenticati, e voi dove siete stati? Violenza chiama violenza, da una bomba non nasce una speranza, mille più di mille corpi rimane solo l'ombra, dalla TV solo fumo negli occhi e tanti morti dimenticati, e voi dove siete stati? Dove siete stati? Non abbiamo altro motivo per stare in Iraq se non per liberare il suo popolo. Cade la bomba, tutti giù per terra, scoppia e rimbomba questa guerra, violenza da violenza, e muore la speranza, e muore la speranza. Negli Stati Uniti, dove il presidente Bush è alle prese con un calo di popolarità nei sondaggi, una sfiducia che non risente solo della crisi medio orientale,